Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati e buona Pasqua da Maria Luisa Pezzali, anche se userei discreta come aggettivo viste le circostanze. Come ogni settimana vi raccontiamo le storie, le iniziative e le risposte che arrivano dal mondo dei consumi in questa fase di emergenza, ci stiamo rendendo conto che molti cambiamenti sono destinati a rivoluzionare interi settori. La moda, per esempio, meno collezioni, più stagionalità, una produzione più mirata, iniziano ad ipotizzare molti grandi nomi. E poi la formazione, l'intrattenimento sempre più digitali, i servizi alla persona tagliati su misura, solo su appuntamento, con orari di apertura dilatati per evitare gli assembramenti. Nell'e-commerce, per esempio, l'emergenza spinge i consumi su abbonamento, il modello della cosiddetta subscription economy, l'economia della sottoscrizione. Un abbonamento e una box mensile, che si tratti di cibo, abbigliamento, cosmetici. Le prime due storie di oggi ci portano proprio in questa direzione. Prima però, come sempre, la riflessione con il sociologo dei consumi Francesco Morace. Il consumautore. Non ho paura di ammalarmi, ma che la paura passi in vano senza lasciarsi dietro un cambiamento. Così Paolo Giordano nell'incipit di Nel contagio, da cui ci ha proposto di partire questa sera Francesco Morace. Ben trovato Francesco. Buonasera Maria Luisa e ai nostri radioascoltatori. Paura del non cambiamento, dunque, del fatto che da quello che è successo, da quello che sta accadendo, non si ricavi una lezione per il futuro. Sì, o che magari si ricavino lezioni che sono in controtendenza rispetto a tanti ragionamenti che stavamo elaborando. Diciamo che al centro di tutto c'è la paura, c'è l'angoscia, c'è quello che prevale in questi giorni e che Paolo Giordano racconta molto bene nel suo libro. Lui in un capitolo parla di matematica della prudenza, no? Cioè ciascuno di noi sta elaborando anche per il futuro delle strategie di vita dove al centro ci sia sempre la nostra salute, la nostra integrità fisica, e questo evidentemente frenerà alcuni cambiamenti che invece erano in atto. Facciamo degli esempi, no? Anche concreti. Tutta quanta, diciamo, la nuova sintonia che si stava cercando di creare con i grossi consumautori, anche ad esempio sui punti vendita, no? Far diventare i luoghi della vendita, dell'acquisto, anche dei luoghi di socializzazione, di incontro, di apprendimento, capisci che tutto questo verrà ripensato e rivisto, perché prevarrà la paura, vivremo un po' in una società del sospetto da questo punto di vista, quindi si rafforzeranno molto i legami già forti, o di comunità o addirittura familiari, ma invece avremo un grande problema a tessere una rete di rapporti con chi magari non conosciamo. Ecco, allora su quello dovremo fare ragionamenti molto importanti. Latte, biscotti, pasta, farina, ma anche pappe e pannolini, saponi e detersivi sono alcuni dei prodotti che Carrefour Italia ha deciso di rendere disponibili per la spesa online in una serie di kit di scatole preconfezionate, bene di prima necessità e prodotti di uso quotidiano in pacchi spesa già composti, non modificabili, con consegna in tutta Italia entro 4 giorni. Gli essenziali, questo il nome, una formula studiata per l'emergenza che potrebbe preludere però ad una nuova modalità di spesa su sottoscrizione. Enrico Fantini. L'iniziativa nasce rispetto appunto alla necessità di far fronte ad un incremento molto importante della domanda e di semplificare il più possibile l'esperienza e ridurre il più possibile il tempo di navigazione sul sito. In questo senso abbiamo pensato a precomporre dei kit che contengono dei prodotti di utilizzo comune, quotidiano, sia da un punto di vista di prodotti alimentari secchi, quindi a temperatura ambiente, prodotti per la cura della casa, la cura della persona e per il mondo del baby, kit già precomposti che appunto con un'unica interazione, un unico click possono essere aggiunti al carrello e essere appunto acquistati in modo molto semplice con un'interazione veramente molto molto breve con il sito. E sono delle box appunto preconfezionate che vengono consegnate in 4 giorni lavorativi in tutta Italia, in 48 ore su Milano e su Torino e nelle città metropolitane. Per ogni ordine finalizzato attraverso questa iniziativa devolveremo 1 euro alla Protezione Civile. Questa emergenza ha messo alla prova i modelli di business, le iniziative di tante realtà, non solo della grande distribuzione. Sono in molte a dire che, volendo guardare il lato positivo, tante idee messe in campo in questo periodo rimarranno poi anche nei mesi a venire. Questa potrebbe essere una di quelle. Assolutamente sì, noi abbiamo pensato questa iniziativa non tanto come e non solo come una reazione all'emergenza, quindi non li abbiamo pensati come kit destinati esclusivamente a questa situazione di emergenza, ma in prospettiva. È chiaro che un po' come tutti stiamo cercando di immaginarci quale potrà essere il comportamento del consumatore del futuro e riteniamo appunto di aver fatto un passo in quella direzione lanciando questa iniziativa. Penso all'economia della sottoscrizione, potrebbe essere una lampadina accesa in questo senso. È uno dei ragionamenti che stiamo facendo. È chiaro che riteniamo probabile che ci sia un incremento nei prossimi mesi dei consumi in casa, vuoi perché molte persone lavoreranno di più in smart working, vuoi perché ci vorrà magari un po' di tempo per tornare a frequentare i ristoranti e quindi l'idea di avere per ogni settimana il necessario, almeno da un punto di vista di prodotti di base, di prodotti di uso quotidiano, per poter cucinare in casa, ci sembra che possa essere una strada da esplorare, quindi è assolutamente un ragionamento che stiamo facendo. Si fa così, rossetto e cioccolato, che non mangiarli sarebbe un peccato. Si fa così, si cuoce a fuoco lento, mescolando con sentimento. Uno dei settori che ha saputo meglio interpretare la formula dell'abbonamento Netflix Economy, viene anche chiamato questo modello, è quello della cosmetica. Le beauty box sono un vero e proprio fenomeno molto chiacchierato in rete, dove i cosiddetti unboxing, cioè gli spacchettamenti, spopolano sui social. Le più famose beauty box sono negli Stati Uniti, ad aprire il mercato in Italia Habibi, fondata 2 anni fa da due giovani imprenditori italiani, uno di loro è Mario Parteli. Ecco che cosa ci ha detto. I nostri clienti ogni mese ricevono una scatola, una box con prodotti di cosmetica a sorpresa e all'interno contengono dai 3 ai 5 prodotti full size o travel size, quindi non dei campioncini gratuiti, di brand che andiamo a scovare in giro per il mondo o di brand che sono già presenti in Italia e che vogliono immettere nel mercato delle novità. A quale prezzo e per quale durata è possibile sottoscrivere l'abbonamento? Le nuove clienti possono provare il servizio a 19,90, quindi la prima box ha un costo molto basso. I piani standard sono trimestrali o semestrali. Il piano trimestrale ha un costo mensile di 29,90 euro, mentre il piano semestrale di 24,90 euro. Il valore minimo garantito è sempre superiore a 90 euro, quindi è anche molto conveniente. Come siete stati accolti sul mercato? Qual è stato il riscontro delle vostre consumatrici? Devo dire in modo molto positivo, diciamo che in questo periodo stiamo raccogliendo degli ottimi feedback perché, essendo un momento molto difficile per le persone e stando appunto rinchiusi in casa tutto il giorno, vediamo che ricevere il nostro prodotto rende la giornata più piacevole e rende le nostre clienti felici di ricevere un regalo a casa, un momento per loro. Stiamo cercando ovviamente di riuscire ad accontentare tutte le clienti che sono già ovviamente abbonate da tempo, ma anche le molte nuove clienti che crescono ogni mese. Sicuramente stiamo lavorando moltissimo per garantire che la logistica funzioni nel migliore dei modi e rispettando impeccabilmente le norme di igiene e di sicurezza. Vogliamo nel nostro piccolo riuscire ad offrire un momento positivo, un momento piacevole, almeno una volta al mese. Continuiamo a parlarne tra pochissimo, ora ci fermiamo per una piccola pausa, ma restate con noi perché nella seconda parte parleremo anche della filiera della moda che si è messa al servizio della produzione di mascherine. E poi, dopo i ventenni, è la volta degli over 65 e delle nuove abitudini nell'emergenza, dai teatri alle biblioteche digitali, dai portali di informazione alle senior hours nei supermercati. Radio 24 è sempre con te. Ci siamo sempre stati e in questo periodo difficile continuiamo ad esserci, anzi, ancora di più. Resta a casa. Noi pensiamo ad informarti con i nostri GR, ad intrattenerti con i programmi in diretta anche in video. Con contenuti speciali creati apposta per te, che puoi ascoltare da casa tua quando vuoi. Scarica la nostra app o vai su radio24.it e scopri tutti gli approfondimenti, gli speciali, le dirette e i podcast esclusivi, sempre disponibili sulla nostra homepage e su tutte le principali piattaforme. Resta a casa con Radio 24. Noi ci siamo sempre. Radio 24. La passione. Si sente. Si sente. Essere e avere. Di nuovo in studio con Essere e Avere, stiamo parlando del boom delle formule su abbonamento nell'e-commerce, spinte anche dall'emergenza. Vi stiamo raccontando della beauty box italiana Abibi. Ancora Mario Parteli. La ricerca è una parte indispensabile del nostro modello e della nostra, diciamo, offerta. Perché la novità è quello che vogliamo riuscire a portare a casa delle nostre consumatrici e la novità è il fattore importante per riuscire a proporre qualcosa di innovativo e qualcosa che è difficile da trovare sul mercato. I brand nel mondo sono moltissimi perché il mercato della cosmetica ha un numero di imprese medio-piccole molto molto elevato e quindi il nostro modello diventa il connettore tra un mercato, un segmento di consumatori molto, diciamo, verticale con il brand che vuole riuscire a arrivare nelle case delle consumatrici. Quindi abbiamo proprio impostato tutto partendo dalla ricerca come base primaria per costruire le nostre box. Solo consumatrici o anche consumatori? In questo momento la percentuale maggiore è femminile. In futuro potremmo valutare di estendere anche il nostro target. Si moltiplicano le aziende della moda impegnate nella produzione di mascherine e altri dispositivi di protezione come calzari e camici per fronteggiare l'emergenza coronavirus. Solo per le mascherine pensate si parla di un fabbisogno mensile di oltre 90 milioni di pezzi. Una mobilitazione, quella del sistema moda, resa possibile oltre che dall'impegno delle singole aziende anche dalla collaborazione tra Confindustria Moda, CNA, Federmoda, PwC Italia e Sportello Amianto Nazionale, che ha redatto il progetto di riconversione d'emergenza degli stabilimenti. Ne abbiamo parlato con Erika Andretta di PwC. Da un lato alcune regioni e Sportello Amianto stavano pensando a come risolvere il problema della mancanza di materiale a uso sanitario. Dall'altro, io personalmente ho lanciato tramite alcune, diciamo, influencer e giornaliste del mondo della moda una call to action per riconvertire le produzioni, perché quando abbiamo visto che le frontiere dei vari paesi si stavano chiudendo, c'era difficoltà a importare dalla Cina, ma non solo, questo materiale, e gli ospedali avevano la necessità, ci siamo attivati in maniera spontanea e abbiamo avuto un primo contatto sia con Confindustria Moda che con CNA che con Sportello Amianto, che parallelamente stavano cercando di capire come aiutare il paese in questo momento difficile. ci sono tre tipi di produzione che abbiamo messo in moto, riconvertiti. Una è la produzione di mascherine articolo 15, quindi a uso sanitario. Abbiamo avuto non solo la filiera della moda e del tessile, ma anche quella dell'igiene per la casa. Ci sono poi mascherine per la popolazione, quindi articolo 16,2. Anche lì siamo partiti con i primi laboratori, abbiamo poi creato delle filiere perché ci sono comunque delle caratteristiche, delle certificazioni di qualità da ottenere, quindi abbiamo fatto uno screening importante e siamo partiti iniziando a consegnare anche quel tipo di prodotto. Infine è partito di recente, grazie a un'azienda pivot che è la Radici Group, la produzione di camici per gli ospedali, i camici monouso. Noi abbiamo disponibili più di 400 realtà, grandi e piccole. Solo i laboratori di classe A hanno potenzialmente più di 2 milioni e 100 pezzi al giorno di produzione. È evidente che dobbiamo di giorno in giorno mixare le richieste che arrivano con i laboratori, quindi noi attiviamo i laboratori non appena riceviamo gli ordinativi. Personalmente sono molto fiera della risposta del sistema moda e del sistema igiene della persona. Abbiamo visto imprenditori che stanno investendo e rischiando di loro per aiutare il paese in questo momento. È bellissimo vedere anche la collaborazione fra aziende che nel mondo normale sono concorrenti e quindi non si parlano, ma in questa situazione si stanno scambiando qualsiasi, e dico qualsiasi tipo di informazione, dammi il nome del fornitore che fa i polsini per i camici, a dimmi come hai fatto a fare quella mascherina a quel costo, così se automatizzo risparmio ne faccio di più. Siamo veramente un paese bellissimo, da nord a sud, non c'è area geografica che non sia messa in gioco, e quindi è veramente bello. La difficoltà nostra è che abbiamo creato un'impresa virtuale diffusa e distribuita sul territorio e quindi le difficoltà sono più di tipo operativo, però devo dire che la volontà di tutti per aiutare alla fine gli ospedali è enorme. Quando Radici ha consegnato i primi 2500 camici all'ospedale di Bergamo è una sensazione che non puoi capire, cioè è enorme. Ecco perché per noi è importante questo progetto, perché vediamo le aziende che si stanno mettendo in gioco, che stanno rischiando di loro investendo, ma non sono preoccupate in questo momento dei costi che stanno sostenendo, bensì del fatto di aiutare velocemente i medici e il paese ad uscire da questa emergenza sanitaria. Parallelamente ci sono imprenditori più strutturati che invece hanno accolto l'appello del commissario straordinario Arcuri di cercare di mettere in piedi in maniera nel medio e lungo termine una produzione interna di questi materiali, perché non possiamo dipendere, come è stato fino al pre-crisi, totalmente dall'estero. E quindi bene che Invitalia abbia aperto un bando il 26 scorso per aiutare questi imprenditori che nel medio e lungo termine vorranno continuare a fare queste produzioni che sono fondamentali per tutto il sistema sanitario. Focus sui trend. Ogni generazione, dicevamo nell'ultima puntata, ha i suoi punti di riferimento per questa emergenza, nuove abitudini oppure vecchie abitudini che incontrano nuove modalità di consumo e di fruizione, dai contenuti sui social alle app, dalle passioni ai personaggi simbolo. Settimana scorsa i ventenni, con Luisa Schiero di Future Concept Lab, abbiamo invece mappato questa settimana i senior. Ciao Luisa, ben trovata. Ciao Maria Luisa e buonasera a tutti gli ascoltatori, un saluto veramente grande. Partiamo dal teatro, uno dei settori più penalizzati ovviamente in questo momento, e sappiamo quanto spazio occupino i consumi culturali per questo nucleo generazionale che voi, Luisa, in istituto come inquadrate innanzitutto? Per noi i senior sono inquadrati in diversi profili. Partiamo con quelli che noi chiamiamo major growers, sono cioè tutti quei senior per cui l'età non rappresenta un freno all'aspirazione ancora a una crescita personale costante, diciamo, in ambiti diversi, e soprattutto poi sono coloro che hanno sviluppato da tempo una certa confidenza con la tecnologia. Parlando di cultura, certamente i teatri, per esempio, sono, come dicevi, tra le realtà più penalizzate, ovviamente, ma che si sono immediatamente attrezzate per fornire attraverso piattaforme o i siti delle alternative. Vediamo per esempio in Francia l'Opéra de Paris, che ha questa attività che si chiama A Revoir. Dal 30 marzo, ogni lunedì alle 19:30, viene pubblicato nel sito la videoregistrazione integrale di una produzione del teatro, tra balletti e opere. Non è da meno il Bolshoi di Mosca, che sul canale del teatro YouTube rende possibile vedere in streaming alcuni dei suoi più importanti spettacoli, quelli che loro definiscono la Golden Collection. Lo spettacolo anche in questo caso inizia alle 19, un po' prima, ma resta disponibile soltanto per 24 ore. E in Italia sono tantissimi i teatri che si sono attrezzati per continuare questo collegamento con le persone, diciamo, online, virtuale, e vi citiamo il Parenti, con l'iniziativa Casa Parenti, un canale all'interno del quale sono pubblicati spettacoli integrali, anche in questo caso, rappresentati in passato a teatro, interviste, documentari storici, backstage, piuttosto che lezioni e incontri con personaggi molto importanti della cultura, tra cui ne cito uno, ma insomma sono anche molti altri, Bauman per esempio. Non solo i teatri, anche le biblioteche si sono riorganizzate nella dimensione digitale. Esattamente, le biblioteche in generale sono da molti anni connesse, la rete per loro è sempre stata una grande opportunità di connessione e collegamento a livello globale. Mi piace citarvi alcuni casi, tra cui Europeana, che in realtà è un sito che collega migliaia di archivi, biblioteche, musei di tutta Europa per condividere e trasmettere il patrimonio culturale europeo. A livello invece globale è interessante la World Digital Library. In particolare è l'UNESCO che ha messo a disposizione un patrimonio immenso di libri, documenti, foto, filmati di tutti i paesi del mondo. Non per ultimo, per importanza, però anche piattaforme che consentono di scaricare audiolibri ad alta voce, romanzi e racconti italiani e LibriVox, oltre 30.000 audiolibri invece nelle diverse lingue. Digitalizzata o meno, è una generazione affamata di informazioni, di contenuti. Il prossimo caso è un caso italiano che fa scuola e lo dimostra. Parliamo in questo caso di Grey Panthers, che è una testata online fondata ormai già dal 2008 da Vitalba Paesano, che si rivolge specificamente ai senior con l'obiettivo di aggiornarli sulle novità in diversi settori, dal consumo alla finanza alla salute, con una particolare attenzione alla cultura digitale. In questo periodo hanno organizzato in particolare alcune attività utilizzando le piattaforme. I giovedì Skype sono degli incontri, conversazioni con i loro abbonati, i loro lettori su Skype a scopo didattico, delle mini lezioni su importanti temi digitali che riguardano la vita di tutti i giorni, quali lo speed, il fascicolo sanitario, le attività bancarie online, no? Proprio per aiutare e supportare le persone a migliorare la loro relazione con questo tipo di servizi. Chiudiamo con il commercio, il retail alle prese con la spesa per i beni di prima necessità. È una sfida quotidiana che si misura con tutti gli accorgimenti sulla sicurezza, quindi flussi d'ingresso, il distanziamento. Il passo successivo applicato anche in Italia sono le fasce orarie riservate agli over, una modalità che molti esperti lo stanno dicendo ci porteremo dietro purtroppo per molti mesi a venire, anche quando riapriranno altre tipologie di punti vendita. Raccontaci i casi simbolo, Luisa. In questo caso, sempre facendo un piccolo riferimento a quelli che sono i nostri nuclei generazionali, è un'attività che ovviamente vale per tutti, ma in particolare per tutti coloro che, essendo poco o per niente digitalizzati, hanno veramente bisogno di andare a fare la spesa. E quindi, giusto per fare un riferimento, sono sempre over 65, li chiamiamo family activist, noi, no? Gli attivisti della famiglia, coloro che sono da sempre estremamente attivi nel contribuire al sostentamento e anche al benessere psicologico della famiglia. Quali sono le attività, dicevamo, che sono state messe in campo negli Stati Uniti? A fine marzo hanno ideato, e moltissimi player si sono attivati per farla, la Senior le senior, scusate, hours, diciamo delle soluzioni per venire incontro e tutelare i consumatori più anziani che hanno la necessità, appunto, dicevamo, di uscire per fare acquisti. Sono orari speciali in cui l'accesso ai supermercati è riservato solo agli over 60 anni. In genere a questa fascia anagrafica è destinata la prima ora di apertura dei negozi, quando davvero oltretutto non si corre il rischio di trovare vuoti gli scaffali dei prodotti alimentari di base. Target, per esempio, riserva ai clienti anziani con problemi di salute la prima ora di ogni mercoledì. Walmart invece ha destinato agli over 60 l'accesso ogni martedì, in questo caso un'ora prima dell'apertura al pubblico, che tendenzialmente può significare una fascia oraria dalle 6 alle 7 del mattino. Luisa Aschiero, grazie, alla prossima. Arrivederci davvero, un abbraccio a tutti. Finisce qui anche questa puntata di Essere Avere. Prima di chiudere, una segnalazione: in questi giorni in edicola con il Sole 24 Ore troverete la guida allo smart shopping anche in formato digitale su shopping24.it e sui principali store digitali. Contiene i dati di scenario, le tendenze e le dritte per il mondo degli acquisti digitali che questa emergenza ha portato in primo piano nelle nostre abitudini quotidiane. A domenica prossima. Ma non mancate, un saluto da Maria Luisa Pezzali.